Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Familiare che inizia nell'Ottocento e finisce nel 1974 con un epilogo nel 2013. È La casa sull'argine di Daniela Raimondi, pubblicato da Nord. 200 anni di storia ambientata a Stellata, un piccolo paese dell'Emilia, dove all'inizio dell'Ottocento arriva una carovana di Rom. Una di loro, Biolca, si innamora di Giacomo Casadio. I due si sposano contro il volere delle rispettive famiglie e da qui ha inizio una discendenza che si divide in due. Da una parte i biondi con gli occhi chiari, che sono sognatori e visionari, dall'altra quelli con capelli e occhi scuri, che parlano con i morti o leggono il futuro. Ecco com'è nata l'idea di questa saga familiare. È nata, come tutte le storie, le saghe familiari, dal desiderio di scrivere della propria famiglia. In effetti è nata col personaggio di Neve del 1900 e non c'era altro, solo che mi sono trovata davanti a una storia un po' piatta, c'era qualcosa che mancava. Poi, parlando con una mia amica, discutavamo del fatto che nella zona dove sono nata ci sono parecchie persone molto scure, con capelli neri e occhi scuri come i miei, e dicevamo che era una cosa un po' strana al nord trovare una popolazione così, da caratteri così meridionali, in fondo comunque stranieri, non si capiva bene. E questa mia amica mi ha rivelato la leggenda che secoli fa c'è stata una grande carovana di Rom che ha raggiunto Bologna, la zona dell'Emilia. Sembra che nel paese dove siamo nate questa carovana si è fermata perché dei carri si sono bloccati, e questa popolazione ha deciso di fermarsi e mi ha detto: per questo siamo così scuri, perché le due razze si sono mischiate. Io ho detto: ma questa è una cosa molto bella, la voglio aggiungere alla saga. E quindi sono partita da questa dal personaggio di Violca, che è questa zingara, la chiamo zingara perché all'epoca libro, si chiamavano così, insomma. Così, non potevo chiamarla in modo diverso, anche se non è politically correct, così, anzi dico sigagna, che però è il termine dialettale. E sono partita appunto da questa zingara, e chiaramente una volta che ho introdotto questo elemento straniero, questo elemento un po' anomalo, tutto il romanzo è stato cambiato. Ecco, infatti proprio nell'incipit si dice: è per colpa di una zingara se la famiglia si è imbastardita. Me lo ripeteva spesso mia nonna. Tutto inizia a partire dal 1800. Abbiamo detto, sì. C'è questa carovana di quelli che all'epoca venivano definiti zingari, che si ferma a Stellata, che è questo piccolo paesino dell'Emilia che si trova al confine anche con Veneto e Lombardia, quindi proprio un crocevia, sì. di strade, appunto. E questa comitiva di zingari, questa carovana di zingari, viene di fatto, si ferma a Stellata a causa poi del maltempo, di una serie di vicissitudini, e quindi qui c'è il capostipite della famiglia, Giacomo Casadio, che appunto si innamora di questa zingara, Violca, con la quale si sposa, nonostante, diciamo, la contrarietà di entrambe le famiglie. Da qui si dà l'avvio ad una discendenza che tu dici è divisa in due, perché da una parte c'è il ramo della famiglia che ha poteri magici, ci sono per esempio quelli che riescono a parlare con i morti o riescono a fare previsioni sul futuro, e dall'altro c'è un altro ramo della famiglia che è fatto di sognatori e visionari. Giacomo Casadio è sicuramente un sognatore visionario, lui è un uomo molto riservato, timido, sta un po' per i fatti suoi, però è veramente un grandissimo sognatore. Giacomo Casadio è un personaggio eccentrico, malinconico, dico nel romanzo, fin da prima della nascita. e ha un sogno, quello di creare una barca molto simile all'arca di Noè, grande a sufficienza per trasportare anche animali. Solo che dopo anni di lavori si accorge che chiaramente qualcosa non ha funzionato. Gli va sempre male, tutte quelle che costruisce male. La prima affonda, riprende cocciuto a costruire un'altra arca, ne costruisce mi pare 7-8 durante tutta la sua vita e una dopo l'altra affondano nel Po. Quindi è un sognatore, ma un sognatore incallito, determinato a, diciamo, a migliorare la propria vita, a fare qualcosa di nuovo, a seguire le proprie ambizioni e i propri sogni. Ecco, poi abbiamo detto che c'è Violca che invece, appunto, grazie alla sua tradizione rom, legge le carte, cerca anche di fare previsioni sul futuro. E diciamo che a un certo punto lancia una sorta di profezia sulla famiglia. Leggendo le carte capisce che a un certo punto in questa famiglia ci sarà un matrimonio che non ci dovrebbe essere, un matrimonio che porta qualcosa di negativo. Il punto è che nessuno sa quando questo matrimonio avverrà, quindi insomma questa profezia rimane come un'ombra su tutti i discendenti appunto di Giacomo e di Violca. Sì, la profezia mi serviva proprio come filo conduttore per allacciare insieme le storie di tutte queste vite. Sono quattro generazioni e chiaramente cioè l'entrata di Violca nel romanzo mi ha permesso di farlo perché lei legge i tarocchi. E questa profezia viene legata al fatto che è per colpa dei sognatori della famiglia che qualcosa di terribile avverrà. Lei non riesce a chiarire esattamente cosa succede o quando, ma vede una morte che ha a che fare o con una gravidanza o con un bambino piccolo, vede un turbine d'acqua nera, una donna, però al di là non riesce a vedere cosa succede. Però dopo questa profezia decide che è per colpa di questa mania dei sogni che corrompe, diciamo, il carattere dei Casadio, che questa profezia avverrà. Di conseguenza avverte il figlio Dollaro e attraverso di lui tutti i discendenti di stare attenti, di abbandonare i sogni strambi, le passioni sconsiderate. Perché essere un po' più concreti, perché sì, altrimenti si potrebbe verificare questa perché profezia. Perché i sogni portano sventura, questa è la sua visione della vita. Ecco, naturalmente non possiamo parlare di tutti i personaggi perché sono tantissimi. Tranquillizziamo anche gli ascoltatori che alla fine c'è anche l'albero genealogico, sì, quindi sì, se si dovessero perdere, ma non ci si perde, devo dire, perché poi è narrato in modo abbastanza cronologico, insomma si segue il senso del tempo. Hai citato all'inizio il personaggio di Neve, che è un personaggio insomma centrale, molto affascinante, una donna che nasce nel 1909, quindi siamo ai primi del secolo, ed è un personaggio importante anche per le generazioni a seguire. Lei quando era bambina si era ammalata, però era guarita quasi miracolosamente. Poi era rimasto il fatto che lei emanasse un profumo particolare dopo questa guarigione miracolosa. Ecco, che personaggio è Neve? Sì, è un personaggio miracolato come prima cosa, quindi si capisce subito che è una persona speciale, nonostante sia una persona estremamente legata alla realtà, al lavoro della terra, a tirar su questa quantità incredibile di figli, quindi passa delle terribili sofferenze. Perché lei da una famiglia quasi facoltosa per amore sposa una persona estremamente povera, però allo stesso tempo ha questa capacità, per esempio, di sognare la morte di qualcuno, di prevederla, e succederà fino alla fine della sua vita quando prevederà la propria morte. Questa saga familiare diciamo che abbraccia circa 200 anni, appunto abbiamo detto dal 1800 fino praticamente quasi ai giorni nostri. Inevitabilmente alcuni dei tuoi personaggi sono legati alla storia con la S maiuscola. Penso per esempio ad Achille, che aveva la mania di fare i calcoli e si unisce a Ugo Bassi, quindi personaggio realmente esistito, nelle lotte risorgimentali. Ma c'è anche un personaggio più vicino a noi, noi dal punto di vista appunto cronologico, che è il personaggio di Donata. Donata attraversa gli anni 60 fino ai primi anni 70 e la vediamo che è una militante dei movimenti estremisti di sinistra, sostanzialmente aderisce alla fine alle Brigate Rosse. Quindi tu hai voluto anche inserire degli elementi storico-politici nel romanzo? Sì. In tutto il romanzo io faccio vedere che non è vero che noi facciamo la storia, che i poveri la subiscono la storia. Cioè nella prima guerra mondiale vediamo il personaggio di quella generazione, di Erasmo, che è ventenne, va in guerra e non capisce nemmeno il perché. E nonostante il suo amico che studia legge, che ha una certa formazione culturale, cerchi di fargli capire che le guerre in fondo sono fatte dai potenti che, a scopo di lucro, lui, Erasmo, non lo capisce. Lui semplicemente subisce il fatto che è stato strappato dalla sua vita, dalla sua quotidianità e va a morire sul Carso. Cioè è incapace di vedere la storia come la consideriamo noi, come un fenomeno economico generale. Lui la subisce, tutti i personaggi della storia subiscono, cioè gli eventi, le vicende storiche, insomma. Quindi anche Donata è un po' una vittima delle circostanze, no, dei Donata tempi. Donata è una persona nata negli anni 40, va all'università, quindi è in grado di decidere, di farsi un'idea più complessa della storia e decide, e lei prende proprio, la storia diventa lei decide che può cambiare la storia. E poi chiaramente si vedrà nel libro che non ci riuscirà, che non è il sistema giusto per cambiarlo, ma lei vuole essere attiva nel cambiare la vita del paese, la vita delle classi sociali più povere. Sceglierà un modo sbagliato di farlo, ma lei proprio cercherà di prendere in mano le redini del proprio destino e della propria classe sociale. Stellata è un posto che esiste realmente. Io la prima cosa che ho fatto sono andata su Google e ho detto vediamo se è un posto di fantasia, se è una Macondo oppure se è un posto che esiste realmente, insomma. E perché hai scelto proprio quel posto? Hai tu un legame speciale? Sì, io non sono nata lì, però sono, diciamo, la famiglia si è spostata in provincia di Varese quando avevo 18 mesi, quindi non ho nessuna memoria del mio paese nativo. Però tutte le estati andavo a Stellata perché ci viveva mia nonna, la nonna materna, quindi avevo la possibilità di creare la mia storia in un posto vero, in un posto che avevo conosciuto da vicino, e per questo l'ho scelto. Poi ho pensato che aveva un nome bellissimo, che era l'incrocio di tre regioni e di tre province diverse, quindi c'era qualcosa di magico anche proprio nel setting e nel nome del paese. Stefania Auci, l'autrice di Leoni di Sicilia, ha speso delle parole molto belle nei confronti del tuo romanzo. È stata un po' lei che ha riportato in auge, insomma, la saga familiare storica del 1800. Tra l'altro ha fatto anche la fascetta del tuo romanzo. Tu arrivi dalla poesia e dai racconti. Ti senti un po' un esordiente nel campo della narrativa, e che effetto ti ha fatto ricevere, come dire, la benedizione, definiamola così, della scrittrice di successo del momento? Sì, ho pubblicato 10 libri di poesia, alcuni di questi hanno vinto anche dei premi abbastanza prestigiosi, però la poesia è un settore di nicchia. E anche essere famosi, chiamiamolo tra virgolette famosi, conosciuti in poesia, non significa nulla, perché sono pochissime le persone che leggono poesia. Quindi sicuramente sono un esordiente per quanto riguarda la narrativa, e questo interesse per il mio romanzo mi ha travolto, mi è caduto addosso quasi come una valanga completamente inaspettata, però chiaramente benvenuta. La domanda da 100 milioni di dollari: a uno scrittore di una saga familiare corale con tanti personaggi, c'è un personaggio al quale tu sei più legata? Sì, sicuramente. Tutti i nomi sono inventati, anche i cognomi chiaramente, però c'è un personaggio a cui il libro è dedicato, Guido, ed è mio padre. È quello che mi ha spinto a finire questo romanzo che ho iniziato più di 20 anni fa, ma la mole stessa del lavoro mi scoraggiava, quindi prendevo e lasciavo, prendevo e lasciavo. Poi la morte di mio padre è stata la spinta emotiva che mi ha veramente convinto a prendere in mano il romanzo e finirlo. Ed è l'unico personaggio che quasi non ho cambiato, cioè racconto il suo passaggio sulla Terra, io direi al 90%, attenendomi alla realtà. La sua è proprio una biografia, quindi è chiaramente il personaggio a cui sono più legata, al suo ricordo, al suo passaggio su questo mondo, in questo mondo. In quanto dal punto di vista letterario, forse il mio personaggio, cioè, due personaggi preferiti, tutti e due donne, sono Violca, per la sua eccentricità, per il suo fare così magico ed eccentrico, e poi Neve che è basata sul personaggio di mia nonna e che appare forse più di ogni altro durante tutta la sequenza degli eventi del romanzo. Abbiamo accennato prima al realismo magico, effettivamente la letteratura sudamericana è qualcosa che ti appassiona, che ti interessa e che ti ha influenzata? Sì, io ho studiato a Londra e mi sono specializzata proprio in letteratura latinoamericana, quindi era inevitabile che fosse la letteratura che conoscevo meglio e che più mi ha influenzata, soprattutto García Márquez. Ci sono molti punti in comune con il mio romanzo, anche se chiaramente poi sono due cose totalmente diverse, però il realismo magico l'ho, diciamo, imparato dalla letteratura latinoamericana, è la cosa che più mi ha affascinato. E questa era Daniela Raimondi, ora in libreria con La casa sull'argine, pubblicato da Nord. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Il cacciatore di libri. Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. È un cocciamatte, il matto del paese, il protagonista di Vita, morte, miracoli di Bonfiglio Liborio, romanzo di Remo Rapino pubblicato da Minimum Fax, che ha vinto il premio Campiello 2020. Arrivato a 84 anni, Bonfiglio Liborio, lui si definisce così, prima il cognome e poi il nome, racconta la sua vita. Una vita rocambolesca che inizia nel 1926 e attraversa la storia dell'Italia, dalla guerra alle lotte operaie. Liborio è un uomo semplice che affronta la vita con filosofia, quasi con stupore, anche il lavoro alienante in fabbrica che lo farà quasi impazzire e che lo porterà prima in carcere e poi in manicomio. Liborio ha studiato poco, ma ama i numeri e il libro cuore e racconta la sua storia nell'unica lingua che conosce, un mix di italiano e dialetto, come ci spiega Remo Rapino in questa intervista realizzata dopo la vittoria del Campiello. Inventare storie è molto meno complicato che inventare un linguaggio. Io ho avuto difficoltà a trovare un codice di scrittura, soprattutto a inventare una lingua. Liborio poteva parlare soltanto in quel modo. Liborio parla un italiano dialettizzato, pieno di un po' di meticciato, pieno di parole in chiaroscuro. È un linguaggio fatto di sgrammaticature volute, insomma. Infatti l'editor è impazzito, ma anche il computer a un certo punto, il correttore automatico, non mi dava più le correzioni perché c'erano 10 pagine, centinaia di errori. Però Liborio poteva scrivere la sua storia soltanto parlando in quel modo. E adesso io pensato, perché, come dire, affascinato dalla pagina bianca, durante il lockdown ho pensato, quasi completato, una serie di poesie scritte in linguaggio liboriano, che non è quello di Leopardi o di Montale, però Liborio scrive anche le poesie, quindi un po' cocciamatto, un poco poeta, e si chiede a che cosa serve la poesia all'inizio, e lui dice semplicemente: la poesia serve a campare, a vivere. Bonfiglio Liborio è un personaggio veramente struggente e tenero. Tu l'hai definito una voce che cammina nella storia. Chi è questo tuo personaggio? Questo personaggio è una voce davvero che, raccontando se stesso, racconta un secolo di storia. E in questo modo la racconto da una periferia esistenziale e da voce a quelli che non hanno voce, agli ultimi della fila, agli emarginati. È una figura che si illude, però illudendosi crea anche delle speranze in certo qual modo, è un po' visionario, molto ingenuo, e quindi la sua ingenuità e i suoi fantasmi lo mettono appunto, dicevo, a metà strada fra Don Chisciotte e Forrest Gump, insomma, è un po' un idiota esemplare, come direbbe Ermanno Cavazzoni, che guarda le cose, guardandole e raccontandole ci fa capire che forse la realtà è possibile guardarla in tanti modi e non sempre secondo i modi come si dominanti. Ecco, in questo senso Liborio è uno che dice il re è nudo, come nella favola di Andersen, forse questa è la sua funzione, dice che le cose non sono così, ma cerchiamo di guardare a oltre e quindi di guardare oltre le apparenze. Io credo che questo sia un libro d'amore, ma questo l'ho scoperto alla fine del libro, quando Liborio dà quel grido, vediamo che succede adesso, aspettando la morte, e in questo senso quel grido è un grido di speranza, è un grido che come si accingesse all'ultima battaglia, perché il mondo e la terra sia più gentile, insomma. Bonfiglio Liborio è sempre ossessionato dal fatto di avere gli occhi come suo padre, si fissa sempre negli specchi, però sì. Suo padre non l'ha mai conosciuto. La sua vita è anche piena di segni neri. Come attraversa questi 80 anni Bonfiglio Liborio? Liborio li attraversa con speranza da una parte, con ingenuità e delusione dall'altro. Liborio vive una vita tra stupore e dolore continuamente, per cui alla fine lui dice che la vita in fondo è fatta di qualche gioia, di straforo, di piccole felicità e anche di un dolore grosso, come quando al cinema si spengono le luci. Li attraversa attraversando i tempi della storia, attraversa l'emigrazione al nord, la guerra, e poi il lavoro in fabbrica, gli anni difficili del lavoro degli anni 60 e 70, attraverso l'esperienza dolorosa del carcere e poi del manicomio, attraverso l'esperienza altrettanto dolorosa del ritorno a casa, perché Liborio ritorna a casa e è ormai un cocciamatte, è uno che vive un'esperienza molto così quotidiana, fatta di piccole cose, diventa anche balbuziente. Lui alla fine ha un rapporto, diciamo così, positivo e bello con una vecchia prostituta, la Sordicchia, che è un personaggio reale, possiamo dirlo per come non c'è più, che era sorda, quindi lui balbuziente e lei sorda erano perfetti da questo punto di vista. Io adesso insieme al FAI, a Lanciano, sto organizzando sto andando a passeggio con Liborio, cioè non sono i voti reali, allora ho trovato delle case vecchie un po' sgarrupate, dice, qui è nato Liborio, qui è la cantina dove veniva, quindi qui è la casa, l'unica cosa vera è la casa della Sordicchia, qui è il funaro dove lavorava, qui è la scuola elementare. Il bello è che la gente ci crede a tutto questo e a me mi diverte tantissimo, perché ogni volta cambio itinerario, però vengono e leggo queste poesie di Liborio nei luoghi in cui lui passa, in cui ricorda il suo lavoro da funaro e tante altre cose. Ecco, Bonfiglio Liborio attraversa tante vicende rocambolesche ma anche drammatiche, anche la vicenda del carcere, certo, il manicomio, eppure sembra avere quasi sempre uno sguardo incantato sulla vita, non lo vediamo mai realmente arrabbiato, cioè è veramente un'anima buona. Sì, perché Liborio pensa continuamente che la vita possa essere e andare in un altro modo. Lui vede con disincanto, proprio questo è il termine giusto, con disincanto, e non capisce che invece poi le regole della vita sono molto, molto più dure. Cioè i suoi valori sono valori ingenui, che sono valori però sono sconfitti. E soprattutto oggi Liborio è molto attuale, per questo parlavo di un libro d'amore, perché alcuni valori come la fratellanza, la solidarietà, la conoscenza dell'altro, l'accettazione dell'altro, dell'io e del tu che si guardano insieme, cioè dell'io che diventa un noi. Ecco, io penso che gli imbecilli cercano di trovare le colpe degli avvenimenti e degli eventi che facciamo, mentre le persone intelligenti cercano le soluzioni. Liborio ingenuamente vuole trovare delle soluzioni, certo non ci riesce, probabilmente è infelice, ma non vuole essere felice come lo sono gli altri, nel senso che la sua felicità eventuale non deve essere pagata dalla infelicità degli altri, quindi sono valori che si raccolgono in quest'anima. Liborio in fondo vede il mondo come una coincidenza di anime. E quando c'è questa coincidenza, qui io questa sera in piazza ho sentito questa coincidenza di anime con la gente che era lì a guardarla, io non riuscivo a vederla bene, ma anche quando presento i libri, a un certo punto ci si chiede sempre, ci si trova a parlare, mi con gli amici, non si può fare più una cena che non si parli di Liborio, anche in altre città. E quindi io sono contento di tutta questa, ma sono contento perché il mondo trasborda di Liborio, sono contento per le voci che non hanno voce, insomma, spero che in qualche modo questo aiuti a capire che è importante essere dalla parte di chi da quella parte della piazza, come diceva De André, dove passa lo scemo e il villaggio ride. C'è una scena molto bella in questo romanzo, è il momento in cui Liborio picchia il suo, insomma, il suo superiore, il suo caporeparto in fabbrica, perché lui non capisce, cioè non gli danno il significato di quello che fa. Qui è un discorso, diciamo così, chiaramente. Ora Liborio non è consapevole, Liborio non è mai cosciente, non ha mai la consapevolezza di quello che fa. Però quando lui chiede cosa ci faccio con i miei gesti, io produco 400 pezzi al giorno, fa un conto rapidissimo perché era bravo in matematica Liborio, e ha prodotto in 8 anni 844.400 pezzi. Cosa ci fate con questi? Dove li mettete questi pezzi? È un discorso sull'alienazione, sulla merce, sul lavoro che dovrebbe essere, che dovrebbe produrre, come dire, una merce che è frutto della fantasia e dell'impegno dell'uomo. Poi questa merce a un certo punto diventa soggetto che domina colui che l'ha inventato. Quindi noi veniamo mercificati, non più la merce, ma l'uomo a essere mercificato da questo modello di lavoro, che è il lavoro del modello capitalistico. Poi in quegli anni era così, per cui si misurava il tempo. Io ho parlato con operai della fabbrica che sono stati alla Ducati di Bologna, appunto, che sono tornati a, e qualcuno mi diceva che era diventato matto per i rumori della fabbrica, li erano entrati nel cervello, perché 8, 9, 10 ore al giorno, quando stai in una fabbrica che collauda il motore eccetera, e questo significa molto. Allora è un discorso sull'alienazione e sul fatto di recuperare il lavoro come una ricchezza dell'uomo, non un suo strumento per essere a sua volta dominato. Liborio non se ne rende conto, però il lavoro in quel tempo era così. Sto parlando prima dello studio dei lavoratori, nel 69, quando il lavoro in fabbrica era questo, era terribile, insomma. A chi dedichi questo campiello? Beh, è facile dirlo, a mio padre, perché mio padre nasce nel 26 e muore nel 2010. Lo faccio nascere e uscire dal mondo come Liborio. E quindi questa sera forse mancava solo lui, avrei voluto davvero che ci fosse, per come se n'è andato e per come ci siamo lasciati, di parlare ancora una volta con lui. E questo era Remo Rapino, che ha vinto il premio Campiello 2020 con il romanzo Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio, pubblicato da Minimum Fax. Al secondo posto, li ricordiamo, si è classificato Sandro Frizziero con Sommersione, pubblicato da Fazzi, seguito da Ade Zeno con L'incanto del pesce luna, Bollati Boringhieri, poi Tralumme scuro di Francesco Guccini, pubblicato da Giunti, e infine Compassi giapponesi di Patrizia Cavalli, pubblicato da Einaudi. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24, ma anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.